Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera, cari amiche e cari amici. Cristo non ordinò di predicare le indulgenze, bensì il Vangelo. Girate questa a Roma. Si deve insegnare ai cristiani che è meglio dare a un povero o fare un prestito a un bisognoso piuttosto che non acquistare indulgenze. Perché il Papa non vuota il purgatorio a motivo della Santissima Carità invece che per denaro? Abbiamo sentito la testimonianza dei colpi di una delle affissioni più celebri e gravide di conseguenza della storia, che ha veramente cambiato la storia del mondo. L'affissione che fece Martin Lutero 500 anni fa, il 31 ottobre del 1517, quando appese alle porte della chiesa del Castello di Wittenberg le famose 95 tesi con le quali ebbe inizio la riforma protestante. E queste battute che abbiamo ascoltato sono tratte dal film Luther di Eric Thiel, in cui il grande riformatore è interpretato da Joseph Finner. Fu naturalmente una svolta epocale e che adesso ricordano molti libri, a partire da una biografia di Lutero scritta da uno dei maggiori studiosi di storia italiani, Adriano Prosperi, professore emerito di storia moderna alla Scuola Normale di Pisa. Il libro si intitola appunto Lutero, gli anni della fede e della libertà, è pubblicato da Mondadori, 580 pagine, 28 euro. Prosperi qua cerca appunto, attraverso la ricostruzione della vita di Lutero, di farci cogliere le trasformazioni che la storia d'Europa e del mondo gli devono, in particolare in una fase storica come l'attuale, nella quale, fa notare l'autore, la Germania riafferma la propria forza e anche l'ambizione di svolgere una missione nei confronti dell'Europa, così scrive Prosperi. Lutero allora torna a essere, scrive l'autore, evocato come una potente espressione dello spirito tedesco, ma anche come l'iniziatore di un moto che divise l'Europa, e così riappaiono all'orizzonte accuse pesanti, come capro espiatore di colpe collettive. A lui si fa carico, conclude Prosperi, da tempo, di avere impresso sul carattere tedesco la suefazione all'obbedienza piuttosto che lo spirito critico e ribelle del cittadino. Insomma, si tratta di una figura capitale che attraverso questo libro scorre come un romanzo e che ci fa conoscere meglio tutte le implicazioni che questa figura ha comportato e tuttora continua a comportare. Su questo sentiamo adesso l'autore. Buonasera ad Adriano Prosperi. Buonasera. Parlando di Lutero, partiamo dal ruolo di rottura che Lutero svolse e che lei sottolinea fin dalle prime pagine del suo libro. La sua fu una rivolta teologica che cambiò radicalmente il modo di guardare al mondo. Infatti lei scrive che mentre l'oggetto della teologia per Tommaso d'Aquino e i suoi eredi e continuatori era stato Dio, per Lutero l'oggetto proprio della teologia era l'uomo. E con questo, scrive, Lutero segnò il passaggio dal Medioevo all'Evo moderno. In che cosa consistette questa rivoluzione, quindi? Con un'altra espressione ho anche detto che la riforma di Lutero segnò il passaggio dal Medioevo all'età moderna, nel senso che passò da un'epoca in cui i vivi erano al servizio dei morti all'epoca in cui il vincolo fra vivi e morti era stato sciolto. E questo era stato sciolto perché Lutero aveva negato che esistesse un qualunque potere terreno, quello del Papa in primo luogo, capace di esercitare un qualche effetto sulla sorte delle anime. Rivendicando, diciamo, l'assoluta sovranità di Dio sulle anime e il loro distacco completo dalla terra. In questa maniera crollava tutto il sistema del servizio dei vivi per i morti, le messe di suffragio, le indulgenze, tutte quelle forme di carità che consistevano nel pregare per tutte le anime e che caratterizzerà questa forma di carità, vero, il cattolicesimo moderno, che resterà fedele a quella tradizione. Nei paesi della riforma questa cosa cambia radicalmente. Nel suo libro lei, proseguendo, poi fa giustizia di alcuni luoghi comuni, per esempio a proposito del famoso viaggio di Lutero a Roma del 1511-1512, scrive: Lutero non era un moralista irritato dalla corruzione dei costumi. Lutero pensava ad altro, la scrittura era la sua enciclopedia. Di fatto in quella Roma il pellegrino giunto dalla Sassonia era un cristiano tedesco che, come tanti pellegrini, si aggirava tra i luoghi della pietà cristiana, un papista come tutti gli altri. Che cosa successe allora? Come si spiega questa contraddizione con l'immagine che poi si costruì di Lutero? Beh, Quell'immagine è nata un po' da affermazioni di Lutero anziano, che parlava della Roma dei suoi tempi come un luogo di tutti i vizi, eccetera, e soprattutto è stata gonfiata dal conflitto che si scatenò tra la cultura tedesca, la cultura luterana in generale, della Riforma, e la Roma papale. E nacque l'idea che la Riforma fosse nata come protesta contro gli abusi morali, la corruttela dei papi, Alessandro VI, eccetera. Ebbene, questa è una leggenda. Lutero, quando arriva a Roma nel 1511, è, come lui stesso si definì subito dopo, un pazzo papista, cioè uno che lucrava indulgenze per i suoi morti, faceva in ginocchio tutti gli scalini della Scala Santa e si preoccupava soltanto di visitare il maggior numero di chiese per appunto ottenere quel tipo di benefici spirituali che erano delle forme di indulgenze. Quindi, diciamo, la rottura non avviene sui costumi. Lutero è pronto a riconoscere, diciamo, le debolezze umane. Avviene sulla concezione del rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è quello dove si apre l'abisso della teologia luterana, in cui l'uomo è fonte di tutti i mali, incapace di fare il bene, incapace radicalmente dopo la corruzione del peccato originale, e quindi si può salvare soltanto se riconosce che la sua promessa di sopravvivenza in paradiso è legata al fatto che Cristo è morto in croce per tutti i cristiani, e quindi sola fide, con la sola fede. Questo principio lo afferma sulla base della scrittura, sola scrittura. Un'altra immagine tradizionale di cui lei parla è quella del Lutero paladino della libertà di coscienza. Lei aggiunge: in realtà il Lutero giovane si fidava assai poco della coscienza, e questa è forse la principale tra le contraddizioni che attraversavano tutti gli anni più creativi della sua opera. Ecco, come si spiega questa contraddizione? Lutero non credeva nella capacità della coscienza individuale di indicare la via giusta, proprio perché la corruzione dell'essere umano è radicale, e quindi anche i messaggi che gli arrivano dalla coscienza, dalla sinderesi, possono essere messaggi orientati dalla natura malvagia dell'uomo. Quando rifiuta di obbedire a Carlo V nella Dieta di Worms, lo dice: la mia coscienza è legata alla parola di Dio. O mi convincete sulla base della parola di Dio, della scrittura, oppure io non posso fare altro che mantenere tutto quello che ho scritto. Quindi una coscienza legata alla parola di Dio è l'unione tra la coscienza del credente e la parola di Dio come base fissa di orientamento. La coscienza può sbagliare. E infatti scrisse il servo arbitrio. Certo, sì, è quello il Lutero battagliero del dopo Worms, certamente, dove ribadisce contro l'umanesimo ottimistico di Erasmo la sua visione radicalmente pessimistica, radicalmente negativa della capacità umana, vero, di scegliere il bene. Sì, è vero, è Lutero che in realtà poi a quel punto voleva solo anche liberarsi dall'ombra di Erasmo, che era l'ombra che lo aveva accompagnato, come una specie di socio maggiore di protezione, perché la fama di cui godeva Erasmo era immensa quando Lutero non lo conosceva nessuno. Però tra i due c'era una differenza radicale. Insomma, Erasmo pensava in termini umanistici, fiducioso nella bontà umana, nella possibilità di fare il bene, anche se lavorava soprattutto sulla conoscenza delle scritture, sul modello di Cristo. Lutero si appigliava alle epistole di San Paolo, a questo cristianesimo fortemente spirituale, fortemente impregnato, vero, di rapporto interiore con Dio. Credeva nella Chiesa invisibile, non in quella visibile, e non credeva nella libertà dell'arbitrio. E infatti lei scrive che la ricerca della salvezza per Lutero si svolge nel rapporto con un libro, il testo del Nuovo Testamento. Sì. Quindi la centralità delle scritture. Sì. Che fu favorita anche dalla stampa. La stampa lei la definisce una bomba a tempo. Quale fu il rapporto tra questo strumento e l'insegnamento di Lutero? Il rapporto con la stampa naturalmente è fondamentale, perché a partire da un certo momento, precisamente a poca distanza dalla stesura delle 95 tesi, la stampa si impadronisce dei testi di Lutero. Lutero comincia anche a scrivere in tedesco per lettori del popolo, e in pochissimo tempo, 1518-1520, Lutero diventa un eroe popolare, l'Ercole germanico, come veniva definito, e la stampa poi pubblica soprattutto queste fonti iconografiche in qualche modo, cioè i fogli volanti in cui una parola, una citazione, vero, un'immagine, Lutero patrono della libertà, traducono per il grosso pubblico in maniera semplificata, in maniera esaltante naturalmente, l'annuncio di libertà che Lutero aveva dato. E che cosa successe esattamente quel 31 di ottobre del 1517? Lei si pone questa domanda nel ricostruire quella giornata, sì, in cui si intrecciano, come scrive... Sì, perché intorno a questa data si sono costruite molte storie, si parla generalmente di affissione delle tesi, è un termine che presuppone che Lutero quella sera sia uscito fuori della sua cella e sia andato all'esterno della chiesa del castello e sul portone all'esterno abbia affisso queste tesi aspettando che le leggessero la mattina dopo le torme di pellegrini che arrivavano il giorno di ogni santi per andare a vedere le reliquie del duca di Sassonia, vero, del principe elettore di Sassonia, Federico, un tesoro ideale perché erano reliquie preziose e chi le visitava devotamente riceveva delle indulgenze. Quindi Lutero in qualche modo è in conflitto di interessi come suddito del duca di Sassonia. Ma questa immagine è un'immagine tarda e il più lucido e preciso, anche se ostile, biografo di Lutero, Johannes Cocleus, Johannes Dobneck, che raccontò la vita di Lutero per filo e per segno a partire dal 1517, scrisse che in realtà Lutero queste tesi le mandò al vescovo competente per territorio perché provvedesse a questo abuso con una letterina che è rimasta del tutto ossequiosa e che le tesi non furono diffuse in mezzo al popolo. Sì, anche se forse appunto una copia sfuggì in qualche modo e finì poi nelle stamperie, ma non ci fu questa volontà di ribellione. Lutero non era un ribelle. Il titolo del libro di Stillman, recentemente tradotto anche in italiano, di Schilling, tradotto anche in italiano, è un titolo ingannevole. Lutero non è un ribelle. Lutero è un obbediente, profondamente obbediente. In nome dell'obbedienza a Dio, naturalmente, è capace di scontrarsi col mondo intero e di rischiare la vita, ma non è un ribelle. È un obbediente che, infatti, nella fase anche più avanzata della sua vita, davanti alla ribellione dei contadini, ai gruppi di spirituali che riformano tutti i costumi della Chiesa, reagisce negativamente, reagisce molto negativamente. Anche nei confronti degli ebrei non era molto favorevole. Anche nei confronti degli ebrei, certamente. Naturalmente su Lutero poi si addensa l'ombra della storia tedesca, perché a partire da questa vicenda la Germania contrae con Lutero e Lutero con la Germania un vincolo strettissimo che l'accompagna per tutti i secoli, soprattutto tra 8 e 900, quando si arriva fino al tentativo riuscito, vero, di Hitler, del Terzo Reich, di impadronirsi dell'alleanza con la Chiesa luterana e di presentarsi come coloro che realizzano, vero, le idee di Lutero, e questo aprì la strada all'antisemitismo religioso e politico del Terzo Reich, col crollo completo della credibilità della Chiesa protestante, simile in questo naturalmente a quel legame fra Chiesa e fascismo, alla Chiesa cattolica e fascismo, sulle leggi razziali, con la mancata denuncia del carattere anticristiano delle leggi razziali di Mussolini. Grazie ad Adriano Prosperi, autore di Lutero. Buona serata. Grazie a lei, buona serata anche a lei. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Vuoi diventare professionista del mondo radiofonico? La Business School del Sole 24 Ore, in collaborazione con Radio 24 e RDS, organizza il Master Part-Time Radio Management and Content a Milano dal 23 novembre. Per info www.radiomaster.ilsole24ore.com. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato con Adriano Prosperi di uno dei testi più noti e discussi di Lutero, cioè Il Servo Arbitrio, che fu pubblicato in risposta e polemica con Erasmo da Rotterdam, il più noto intellettuale dell'epoca, che aveva scritto nel 1524, al culmine di un confronto intellettuale che aveva segnato la rottura tra i due studiosi, il libro sul libero arbitrio. A questo libro, al De Servo Arbitrio, Lutero era molto legato, lo considerava anzi l'unico, assieme al Catechismo, di tutti quelli che avesse scritto nel quale si potesse veramente riconoscere. E ne esce di questo libro importante una nuova edizione che è pubblicata da Claudiana, curata da Fiorella De Michelis Pintacuda, col testo italiano e la versione italiana di Marco Sbrozzi, 770 pagine, 49 euro. Il libro fu scritto, come dicevo, in reazione a Erasmo, una reazione che Lutero all'inizio avrebbe voluto forse più serena e temperata, ma che in realtà gli prese la mano. Nel libro, infatti, Lutero non cela l'irritazione rispetto all'intellettuale rimasto fedele al cattolicesimo, come appunto era Erasmo da Rotterdam. E ne uscì un'opera complessa, come riconosce la stessa curatrice, che la definisce non poco farraginosa, ma certo fondamentale per i protestanti, per chi voglia conoscere Lutero e per chi intenda approfondire le molte anime del Rinascimento. Un'interessante testimonianza di parte cattolica su Lutero invece è quella di Saverio Xeres, che è un prete e teologo, autore del libro O Roma o Cristo, la drammatica scelta di Martin Lutero, 1517-1520, pubblicato da Ancora, 134 pagine, 15 euro. Interessante perché questo libro sottolinea l'importanza dell'anno veramente decisivo per la riforma, che fu ancor più del fatale 1517, il 1520, quando, ci spiega l'autore, venne segnata la rottura definitiva con Roma da parte di un uomo che, dopo aver ritrovato il senso autentico della propria fede, ritenne non più possibile rimanere in quella chiesa che fino a quel momento era stata anche la sua. Anche Prosperi del resto definisce il 1520 l'anno delle grandi scelte, con la produzione di libri ed interventi da parte di Lutero che, scrive Prosperi, segnarono la linea di displuvio tra il prima e il dopo, non solo della cristianità europea, ma anche degli assetti politici e civili dei popoli del continente. Xeres non è molto lontano da Prosperi anche nel ricordare il ben diverso atteggiamento nei confronti di Lutero che c'è oggi. Lutero, scrive, infatti, fu anche innanzitutto quell'uomo di fede intensa che accoglieva con gioia profonda il Vangelo come la propria rinascita. Un volto di Lutero, oggi riconosciuta anche in ambito cattolico, dopo una lunga maturazione, innanzitutto di carattere storiografico, che ha attraversato tutto il Novecento. In questo libro troviamo il percorso biografico di Lutero, i passaggi più decisivi della sua maturazione e infine una descrizione delle reazioni di Roma e delle condanne che sancirono la rottura definitiva, ribadendo come anche tra i cristiani contemporanei perduri spesso ancora oggi quel silenzio sulla verità del Vangelo da cui Lutero, scrive Xeres, cercò di risvegliare le coscienze. Un altro libro giocato soprattutto sullo scontro tra Roma e Lutero è pubblicato da Marsilio, scritto da uno storico esperto in particolare del Rinascimento, egli è uno storico tedesco, Volker Reinhardt, che ha pubblicato Lutero l'eretico, la riforma protestante vista da Roma, 320 pagine, 28 euro, tradotto da Claudio Bonaldi ed Elisabetta Tangorra. Questo libro mette bene in luce le ragioni per le quali il rapporto e il confronto tra Roma e Lutero si sia quasi immediatamente congelato in uno scontro tra posizioni irremovibili e distanti, tra ruoli prefissati che era quasi impossibile scalfire, scrive infatti l'autore. La discussione fin dal principio, anziché assumere la forma di uno scambio di idee, si ridusse a uno scambio di attacchi. Come mai? E Reinhardt ce ne indica alcune ragioni. Ragioni che hanno in parte anche consolidato nell'immaginario collettivo alcuni luoghi comuni, per esempio quella di una chiesa ferma, arcigna, rocciosa, che non voleva sentire ragioni. In realtà, scrive l'autore, il contributo culturale e teologico della Chiesa di Roma in questo secolare dibattito dibattito rischia di essere grottescamente sottovalutato. Lutero poi si dotò di un'arma insuperabile, la stampa, non solo, come sappiamo, per l'importanza che questo ebbe nel diffondere i propri testi e i testi delle scritture tradotte in tedesco, ma la stampa che fu un grande strumento per la diffusione delle immagini. Scrive infatti l'autore che Lutero e i suoi seguaci infaticabilmente diffusero volantini e pamphlet a grande tiratura che ritraevano il Papa come una creatura infernale e incitavano alla sua distruzione. E qui, purtroppo, dal punto di vista della comunicazione, Lutero vinse. Dall'altra parte, infatti, non si ebbe un'adeguata risposta. E allora, conclude l'autore, solo prendendo in esame anche le fonti romane si riuscirebbe a mettere a fuoco quel processo di distacco, separazione, divisione e demonizzazione i cui effetti sono evidenti ancora oggi. E questo quindi fa il libro, cercare di smontare questi luoghi comuni, questi presupposti, questi preconcetti, con un'appassionante descrizione, tra l'altro, dell'Europa rinascimentale nel quale lo scontro maturò. Siamo partiti con le battute di un film, cambiamo argomento e chiudiamo con un altro film che nelle sale in queste settimane ha accolto con giudizi contrastanti, Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve, prodotto da Ridley Scott, che aveva diretto il primo film, quello del 1982. Che era stato tratto, come ricorderete, da un romanzo di fantascienza di Philip Dick e che fece molto discutere per le implicazioni anche filosofiche che proponeva. Quali furono le ragioni autentiche di quel successo? Se lo domandano adesso gli autori chiamati a collaborare a un libro curato da Vanni Codeluppi, Blade Runner Reloaded, ossia Rigenerato, che è pubblicato da Franco Angeli, 116 pagine, 16 euro, con testi di David Harvey, Alison Landsberg, Antonio Caronia, Mario Pezzella, Simone Arcagni, Mauro Ferraresi. E in occasione di questo nuovo film, appunto, esce questo libro nel quale gli autori cercano di comprendere le ragioni del successo iniziale e dell'influenza che quel film ebbe sulla cultura sociale dell'epoca. Blade Runner, se vi ricorderete, si svolgeva in una Los Angeles di decadente e disfatta, invece una Detroit non molto diversa è quella del 2008, descritta da un autore francese, Thomas Reverdy, scrittore di successo e insegnante di liceo, che ha scritto Era una città, pubblicata dalle edizioni Clichy, 274 pagine, 17 euro, tradotto da Tania Spagnoli. A Detroit, la città vittima della crisi dell'auto, arriva un giovane ingegnere francese per un nuovo progetto automobilistico che presto lo abbandonerà quasi a se stesso nella città ormai devastata dalla crisi. Eugène, il protagonista, diventa quindi il simbolo di una possibile riscossa da ricercare attraverso la riscoperta dell'essere individuo, una riscoperta che si dipana in un noir che simboleggia la crisi di una città e la rinascita possibile delle persone. E sentiamo una vecchia, la nonna del ragazzino scomparso che fa da filo conduttore alla vicenda, che evoca i bei tempi della Detroit d'oro. In quegli anni ce ne sono molti come lui che sono venuti qui per trovare un lavoro regolare in fabbrica. È qui che ha conosciuto mia madre e che ha potuto finalmente avere una casa sua, un'auto. Lui che aveva praticamente attraversato gli Stati Uniti a piedi. Oggi non possiamo rendercene conto, Charlie, di cosa fu quell'epoca dopo la guerra, quando ero piccola e sono cresciuta qui. Forse era il paradiso. Io e tuo nonno ci siamo cresciuti. Non so quale abbia potuto essere la mela, né chi abbia voluto morderla per primo. Chi ha voluto un giorno un'auto più grande, chi non ha più sopportato di respirare la stessa aria degli altri. Eppure, visto da qui, stavamo così bene. Forse il paradiso è sempre ciò che si è perso. E a questo punto il confettino. Avete sentito dell'asta che mercoledì scorso ha fatto balzare alla cifra di oltre $1 milione un appunto che Einstein aveva scritto sul tema della felicità nel 1922. Se volete presentare Einstein ai vostri ragazzi, vi segnalo il libro di Sergio Rossi, fisico e scrittore. Einstein l'aveva capito, la scoperta delle onde gravitazionali. È pubblicato da Feltrinelli Kids, illustrato da Allegra Gliardi, 128 pagine, costa 13 euro. In questo libro si racconta, come ci spiega l'autore, un incontro tra un oggetto nato 1,5 miliardi di anni fa in un angolo sperduto dell'universo e un uomo che poco più di 100 anni fa l'ho descritto senza averlo mai visto. L'oggetto era un'onda gravitazionale, l'uomo si chiamava Albert Einstein e questa storia racconta perché aveva ragione 100 anni fa come oggi. Infatti l'intuizione di Einstein sarebbe stata confermata solo 2 anni fa, nel settembre del 2015, grazie a un esperimento collettivo che era stato avviato molti decenni prima da un fisico americano, al quale poi parteciparono più di 1000 fisici americani, tedeschi e italiani. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Filippo Aureggi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.